Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Come non di rado accade, la scelta dell'argomento principale di oggi è opera vostra. Tra la posta del mattino ho trovato molte mail, per esempio, non so, Elio da Pescara: caro Garanzini, ieri sulla 7 è stata trasmessa una ricostruzione di tutta la vicenda Calciopoli. Risentendo le registrazioni telefoniche sono stato colpito da sconforto, mi chiedo come si possa continuare a seguire ancora il calcio, eccetera eccetera. Ciliegina sulla torta è venuta nel cosiddetto dibattito finale in cui i vari opinionisti, a cominciare da Mughini, negavano tutto. Che tristezza. Ne ho letta una, sono davvero tante, dello stesso tenore sono i messaggi che stanno arrivando come sempre in tempo reale. Claudio scrive: ho visto la trasmissione sulla 7 dedicata a Calciopoli, come avrebbe detto il grande Alberto Sordi, ammazza che zozzeria. Vabbè, io non l'ho visto, ho fatto di meglio, e cioè ho trovato chi l'ha visto, e di televisione sinceramente si intende ben più di me. Buongiorno Marino Bartoletti. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Questo chi l'ha visto sembra quasi una minaccia. Comunque, se questa può essere una notizia, eravamo in buona compagnia, perché ieri sera niente di personale di Piroso ha battuto il suo record facendo quasi il 5,50%, il che vuol dire che eravamo in 642.000 maniaci a guardare quel buon lavoro, per la verità. Che buon lavoro, ecco, questo mi sembra un bel punto di partenza, perché ritorna anche in tutto il materiale cartaceo che ho sotto mano, che ripeto sono le lettere degli ascoltatori, e in questi primi interventi scritti che vedo agli SMS. Un buon lavoro, dici? Sì, decisamente un buon lavoro, anche se, come dire, poco originale, nel senso che noi infelici addetti ai lavori che ci siamo dovuti occupare melanconicamente di questa cosa, più o meno conoscevamo tutti gli estremi della vicenda e i cosiddetti brogliacci delle intercettazioni. Certamente vedere queste intercettazioni tradotte in, come si dice adesso, docufiction, sì. Vedere questo interprete molto bravo, Mattia Sbragia di Moggi, molto aderente, molto fedele, sentire anche le registrazioni originali dell'interrogatorio, sentire Moggi piangere come un essere umano, mi verrebbe da dire, ma questo toglielo dalla registrazione. Insomma, qualcosa ha fatto, qualcosa ha colpito, e soprattutto devo dire che mi è difficile dissociarmi da quello che è il tono delle mail e degli SMS dei tuoi ascoltatori che hai appena accennato. Effettivamente anche noi trucidi, duri, temprati, addetti ai lavori, anche noi che sapevamo, nel vedere queste cose ci siamo rimasti un pochino male. Sì, eh? Sì, anche se fatalmente la ricostruzione è stata parziale, nel senso che per rifare tutta la vicenda di Calciopoli o di Moggiopoli, come dice qualcuno in maniera più o meno pertinente, non basterebbe il tempo di Ben-Hur, perché sono talmente tante le cose. Certamente si è ricostruita forse anche un po' maliziosamente, sicuramente con buon esito artistico, una fetta della vicenda, sicuramente quello che ne è uscito è estremamente inquietante, e mi chiedo veramente come si possa dar torto a chi dice: ma perché dovremmo continuare ad andare allo stadio? Perché siamo ammalati, Gigi, perché continuiamo ad andare? sì, non è un segno di grande sanità mentale. Senti, Marino, sentiamone insieme un frammento che va sotto, che è rubricato, lo dico in regia, sotto la voce Operazione Offside. Sentiamo. Lei pensava che il telefono fisso di Bergamo non potesse essere messo sotto controllo? Ma io sono in buona fede, perché mi dici che mi sono lasciato andare? Perché quell'errore lei lo sta pagando ora. Quell'intercettazione ci illumina tutto il resto. Ma voi mi state trattando come un criminale. Quel numero di telefono intestato a quel De Cillis che lei usava per le conversazioni riservate con Bergamo e Pairetto, noi abbiamo provato ad intercettarlo, ma siamo arrivati troppo tardi. Quando l'abbiamo fatto, quel numero già non esisteva più. Ma che sta dicendo? Lo sa che vuol dire questo? Che voi usavate gli stessi metodi di un'organizzazione criminale. Insomma, è un frammento soltanto, ma rende un'idea, credo, no? Di che cosa sia stato questo programma. Sì, poi in realtà ovviamente non lo puoi far ascoltare tutto, ma all'obiezione del maggiore Auricchio Moggi dice: ma come, non è un'organizzazione criminale, ma mica sono Provenzano io, o dice mica sono Gellio io. E il problema umano è questo, se non fosse un problema sportivo, sociale, morale, che Moggi dà l'idea di non capire o di non voler capire, evidentemente, né vogliono capire le persone che si ostinano a difendere questo comportamento. Cioè, qui nessuno di noi è vergine, nessuno di noi può gettare la prima pietra, però non si può neanche continuare a equivocare sul non penalmente rilevabile. Insomma, lo sport qualche piccola legge di lealtà, di moralità la dovrebbe ancora conservare, e qui queste leggi sono state completamente infrante, non solo da Moggi naturalmente, ma anche dalla complicità di tante persone, giornalisti compresi, che sono stati appresso. A proposito di complicità, insomma, senza, usando i toni giusti e approfittando della libertà di stampa che al momento riusciamo ancora a frequentare nel paese, io ricavo dai commenti scritti e meditati e quelli invece più improvvisati che ricevo anche adesso che, così come è stata molto convincente la docufiction, è stato un po' meno convincente il dibattito successivo. Mi confermi? Guarda, io quello che dovevo dire e fare nel caso Moggi, tu sai in che cosa è consistito. Sì, allora facciamo così, lo ricostruisco io perché risale direi a 3 anni fa, no Marino? Tu eri un collaboratore, eri un editorialista di Libero e un giorno hai scoperto che un nuovo collaboratore di Libero era diventato Luciano Moggi, hai scritto due righe all'allora direttore Vittorio Feltri e gli hai detto che non ti sembrava granché compatibile questa new entry con la tua presenza e te ne sei decorosamente andato. Sì, semplicemente con la mia dignità, io non ho fatto piazzate, non ho posto out, ho scritto due righe abbastanza ironiche come tante volte mi riesce di fare, peraltro mai pubblicate, questo mi è dispiaciuto un pochino, potevano anche essere utili al dibattito, nelle quali più o meno dicevo domine non sum dignus, cioè non voglio mai che una mia riga possa portare via spazio a questo grande nuovo opinionista. Aprendo una parentesi, fra l'altro mi piacerebbe scoprire se queste cose le scrive veramente Moggi o le scrive qualcuno a nome suo, ma questa è una malinconia da ordine professionale sulla quale possiamo soprassedere tranquillamente. Il dibattito dopo, diciamo che il cast scelto era abbastanza sbilanciato dal mio punto di vista, fermo restando il massimo rispetto per tutti i presenti. Ecco, non si è levata neanche una voce critica, sinceramente, se non forse per difendere alcune posizioni personali. Sì, e quindi diciamo che probabilmente nella costruzione della serata, poiché la docufiction era evidentemente, inevitabilmente e documentalmente sbilanciata da una parte, no, qualcuno ha pensato di riequilibrare. Questo lo direbbe lei. C'è stata la sensazione che ci fosse qualche piccolo rimorso per il lavoro precedente, fra l'altro fatto in maniera impeccabile. Io stimo molto però Pieroso, sta facendo un lavoro veramente molto molto buono nella sua nicchia, come si dice. Dopo sembra quasi che abbia voluto tirare in qualche modo il freno a mano. D'altra parte, se parliamo di straordinarie partecipazioni a dibattiti, sei stato tu domenica pomeriggio con un SMS a segnalarmi la presenza di Moggi a Canale 5, no? E mi pare che Mediaset abbia fatto pandan la sera poi con ospite d'onore a Controcampo, Corona. E mi è sembrato un buon filotto, no? Adesso non uso la parola detenuti, stiamo ben attenti, ma tra personaggi in attesa di giudizio e personaggi invece appena già giudicati, e anche in un certo modo, mi pare, no? Lei mi sembra un po' malizioso, sì. Garanzini. Ti confesso che la sera non ho visto Corona a Controcampo, no, perché nemmeno io, ma sono tutte segnalazioni attendibili, però. Sì, è vero. Non posso negare, neanche sotto tortura, che ti ho segnalato io la presenza di Moggi, ma soltanto per condividere il mio dolore con qualcuno a cui voglio bene o non voglio bene, come nel tuo caso. La presenza di Moggi in quella trasmissione è stata sinceramente imbarazzante, perché si tendeva pesantemente alla beatificazione, si voleva tirare fuori, spero che non cada la linea, il lato umano del personaggio Moggi. E il rischio c'è stato, ma lo combatto con un messaggio soltanto. Prima dell'intervallo Filippo da Bitonto scrive: posso stringere la mano al signor Bartoletti? Beh, immagino proprio di sì, e immagino che la stretta venga ricambiata. Torniamo in compagnia di Marino Bartoletti. Marino, non per infierire, ma nella scaletta io avrei previsto di farti ascoltare anche un paio di frammenti di Mourinho. Li reggi dopo l'inizio? Ma sì, guarda, lasciami anche dire una cosa, sì, su Moggi, poi chiudo l'argomento. Sì, certo. Visto che lo fanno tutti, lo dicono tutti, anche a me Moggi è sempre stato particolarmente simpatico, e da lui ho ricevuto anche gesti di affetto, di amicizia, peraltro anche contraccambiati, e non faccio fatica a riconoscergli anche dei meriti professionali piuttosto importanti. E ti aggiungo di più, secondo me, se tu o io forassimo sulla tangenziale est, se passassimo oggi, si fermerebbe a ad aiutarci a cambiare la gomma, o ce la farebbe cambiare dal suo autista? Se passasse Mourinho probabilmente non si fermerebbe. Quindi c'è un tratto umano che io mi sforzo di continuare a riconoscere, ma c'è un tratto morale nel quale, se permetti, per la mia povera formazione, per la mia povera dignità e per la mia povera storia, vorrei potermi continuare a non riconoscere. Tutto qua. Certo, dopodiché certo. Dammi Mourinho e poi spingi il martello sulle mani. Ti do Mourinho che non si fermerebbe, bisogna vedere se non farebbe anche una sterzata, già che c'è, da come la sta mettendo negli ultimi tempi, no? Allora, sentiamo il primo frammento di ieri. Dello stesso modo che dico con onestà è vera l'offesa, dico con la stessa onestà non è vera nessuna di queste tre cose: contatto fisico, aggressione, tentativo di aggressione. Se le chiedo scuse pubbliche? No. Perché no? Perché la situazione non era pubblica. La situazione l'ha fatta pubblica lui. Non avrò problema nessuno di parlare con lui come uomini. Il miglior modo di finire la storia penso che è finirlo con un po' di buon umore, con un po' di buon umore, e di dire che mi aspetto da lui un regalo di Natale. Regalo di Natale, perché finora poi ha precisato con una straordinaria battuta, veramente di altissima scuola, ha precisato Mourinho che il nostro collega Ramazzotti, insomma, è diventato celebre grazie a lui. Finora si conosceva solo un altro Ramazzotti, adesso è celebre anche lui. In tutto questo si sono già dovuti scusare a nome di Mourinho l'amministratore delegato della società Inter e la sera successiva il presidente. Ma cioè, Cicerone diceva quousque tandem, no? E usava questa lingua di allora. Ma insomma, la domanda tradotta è: ma fino a quando, a parere tuo, l'Inter sarà costretta a sopportare queste, dal punto di vista mio, angherie? E lo dici a me, che me lo incontro tutti i mercoledì. Guarda, io ti devo dire una cosa. Sinceramente, prima che Mourinho venisse in Italia, ero piuttosto prevenuto nei suoi confronti, perché non riuscivo a intraffredere nella sua personalità né garbo, né educazione, né simpatia. Poi devo ammettere, forse una mia debolezza senile, che il suo approccio con l'Italia e coi media italiani è stato abbastanza brillante, abbastanza simpatico, quasi ironico, al punto che io mi sono quasi dovuto ricredere dopo i primi approcci, dopo le prime uscite. A questo si aggiungeva un valore professionale che tutto sommato era decisamente certificato. Poi io non so cosa gli è preso. Prima citavi tu la battuta che non hai fatto ascoltare di Ramazzotti. Io ho paura che a questo punto non sia più tanto bravo quello che gli scrive i testi. Sì. Perché così come fu molto bravo e brillante quello che gli scrisse la frase del Pirla, per cui quasi risultò simpatico, certo, adesso veramente non ne azzecca più uno, al punto da chiedere agli amici che ci ascoltano, ma soprattutto a Moratti, che probabilmente sa il latino perché appartiene alla nostra generazione che ci obbligava a studiarlo, quousque tandem, appunto. Fino a quando abuserà della nostra pazienza? Ma a questo punto ne faccio un discorso neanche più tecnico, ma umano e quasi di dignità professionale per quanto riguarda la nostra categoria, perché Moratti può avere, come si dice, come abbiamo detto tante volte, mille difetti, ma sicuramente non ha il difetto della scortesia, sicuramente non ha il discorso della villania, sicuramente non ha il discorso della cafonaggine. È un uomo per bene. E Mourinho è un suo dipendente che non è in linea con l'ambiente per bene che, secondo me, Moratti ha cercato di introdurre nell'Inter, cioè in una delle tante sue società. Assolutamente. Assolutamente d'accordo. Senti, mi vengono in mente, poi c'è volendo un altro frammento di Mourinho, ma non esageriamo col falci del male. Ci sarà spazio poi quando ci saranno gli interventi degli ascoltatori. Questa conflittualità permanente che Mourinho indubbiamente ha creato ha qualche radice nel passato, no? Insomma, no, intendo dire che non è certamente la prima volta che ci sono rapporti duri tra stampa al seguito, diciamo, e personaggi a vario titolo. Noi ne abbiamo vissuti ai nostri tempi direttamente in trincea. Credo che se ripensiamo per esempio alla vigilia degli europei dell'80, in quel tentacolare ritiro che era la città di Biella, no, Marino? Beh, e soprattutto la cittadina di Pollone, mi rivolgo come ad un indigeno. Come no, la cittadina di Pollone, che ha uno stupendo parco, io sono nato a due passi da lì, ma insomma che quell'anno era il teatro del ritiro azzurro, eccetera, eccetera. Il problema è che in quel momento, in quell'epoca storica, c'era il processo per il calcio scommesse e diciamo che noi, interpreti dell'opinione pubblica, non eravamo tenerissimi nei confronti della squadra, e Bearzot, essendo la chioccia della squadra a tutti i costi e oltre ogni ragionevole dubbio, gli scontri tra di noi erano discretamente frequenti, ma forse sì, di un'altra levatura, mi pare di ricordare. Adesso cerco di rimuovere il paragone fra quel commissario tecnico e l'attuale commissario tecnico, certo, per quanto riguarda il tratto umano, ma queste sono malinconie che naturalmente sappiamo soltanto noi. Però lo so dove vuoi arrivare tu vuoi arrivare alla Meneghina. Cioè, si poteva anche far baruffa col Vecchio per tutto il giorno e per quelle autentiche ammuine che erano le conferenze stampe, in cui, l'abbiamo già ricordato in questa trasmissione, c'era qualcuno che voleva Adelio Moro in nazionale. Perché anche quello abbiamo sentito in quelle conferenze stampa, come prima di trasferirsi nella Mena Fregene per la sfortunata fase finale. Come no, ma c'era anche Righetti o Santarini al posto di Scirea tra le richieste, dell'epoca. Sì, è vero. È vero. Vabbè, avevo fatto finta di rimuovere. Ecco, certo. Però poi finiva che noi nemici, cattivoni, eccetera, eccetera, si portava come i re magi la Meneghina, nel senso di torta a Bearzot, e sapevamo benissimo poi dove la cosa andava a parare, conoscendone la golosità, ma soprattutto conoscendone la nobiltà umana, questo è fuori dubbio. Ma guarda che, a parte Bearzot, che è un paragone, mi verrebbe da dire, irriverente, parlando degli allenatori di oggi, però tutta la razza si è imbarbarita, secondo me, perché sicuramente gli allenatori ne sapranno più da allora dal punto di vista tecnico, nutrizionale, cibernetico, delle pubbliche relazioni e quant'altro, però c'è, ripeto, un tratto umano che è andato completamente perduto. Cioè, io guarda, sono riuscito nella mia vita, non so se la cosa ti può dare dolore, ti può far sorridere, a litigare con Nereo Rocco per colpa di un collega sicofante. Puoi immaginare com'è finito, con una pacca sul sedere da parte sua, e col desiderio di riportare tutto nella totale normalità, forse perché noi gli allenatori li frequentavamo anche fuori dal posto di lavoro, forse perché ci si trovava da Ottavio, forse perché non c'erano le conferenze stampa e rispetto gli addetti stampa. È vero, c'erano rapporti ravvicinati, erano chi ha mai dato una pacca sulla schiena a Mourinho e chi ne ha mai ricevuta una da Mourinho? Pensa che lo si perde sto ragazzo. No, ma questo è indubbiamente un altro mondo. Certo che se apriamo il libro dei ricordi mi viene in mente di quella volta che un cronista romano, e noi eravamo presenti nello spogliatoio di Biella, stava chiacchierando con noi e stava dicendo e si riferiva ai giocatori: no, ma vedrai che corrono poco in allenamento, ma se per caso dovessero avere dei soldi per una serata, allora sì che corrono. In quel momento svoltò dall'angolo Bearzot e direi non neanche gridando, ululando, cominciò a mettere il dito sotto il naso a questo collega romano, dicendogli, urlandogli, tu corri per molto meno. Ecco, lì il collega romano non ebbe argomenti per contraddire questa affermazione. No, e lì fu un momento difficile, sinceramente difficile. Però il giorno dopo, o forse un'ora dopo, tutto era finito, poi magari non dimenticato, non rimosso, ma insomma c'era un altro tipo di convivenza. Guarda, so che hai delle incombenze per cui ci dobbiamo salutare, però c'è una parola magica che persino José Mario dos Santos Félix Mourinho potrebbe ripescare ogni tanto dal suo arido repertorio, che è chiedo scusa. Ecco, una volta me potrebbe riportare tutto in carreggiata e tornare a farcelo stimare come forse potrebbe meritare anche come tecnico. Poi lui ha i fatti dalla sua e noi abbiamo soltanto le parole. Usi più i fatti, dia all'Inter quello che tutti gli interisti e forse gli appassionati di calcio si aspettano, e la smetta di tenere sempre il broncio contro tutto e contro tutti. Questo è molto vero. È vero anche che, come un ascoltatore chiosa, salutandoci con molto calore tutti e due, scrive anche: è vero che però in questi 25 anni, che poi sono 30, è la società che si è imbarbarita di fondo. Purtroppo temo che abbia ragione. Ha perfettamente ragione, lo si vede nelle manifestazioni quotidiane che vanno dal sociale al politico, certo, eccetera, eccetera, ma non immalinconiamoci troppo, perché noi abbiamo superato i 60 e siamo dei personaggi saggi al di sopra di queste cose. Certo. Un abbraccio e buon anno, Marino. Anche a te, a tutti gli amici, a tutti gli intelligenti amici che seguono Radio 24. Grazie. L'unico allenatore di oggi che mi può ricordare un rock con Bearzot è Ancelotti. Non trova, scrive Luigi, da Reggio. Sì, trovo che Ancelotti, diverso però, trovo che Ancelotti sia quello che, considerati i tempi, si avvicina di più a quei due personaggi. Questo, su questo sono d'accordo. Dire che non ce ne siano più non è vero, perché a modo loro ci sono un sacco di brave e semplici persone che fanno il mestiere dell'allenatore, e non è necessario andare a pescare tra quelli, insomma, già avanti con gli anni, tipo Reia. Ce ne sono anche molti, molti tra i giovani. Il fatto che ci sia in questo momento, e parlo di educazione e di rapporti e di rispetto, il fatto che ci sia una mela marcia nel cesto, e che questa mela marcia tra l'altro sia stata importata, non significa che tutte le mele che c'erano nel cesto di casa siano andate a male nel frattempo, non mi risulta assolutamente. Poi altro è la personalità, altro è il saper creare un personaggio, altro è magari un personaggio speciale che è difficile raggiungere da un punto di vista di fascino, però senza mancare di rispetto o sminuire nemmeno troppo i contemporanei. Da Milano ha chiamato Fabio, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a tutti. Ma una cosa veloce, Garanzini, poi ascolto per radio la considerazione sua. Io per un attimo ho ancora un dubbio se guardare la televisione o stare con i miei due bambini magari a giocare, che forse andrebbe fatto comunque. Devo dire che la televisione veramente ti fa vedere quello che vuole. Lei provi a immaginare chi l'ha visto, che fanno il lunedì, montato in uno studio con lo sfondo del Carnevale di Rio e delle veline o delle letterine in studio, se ha lo stesso senso. E quindi i complimenti, come ha fatto anche Bartoletti, li faccio a chi ha montato il servizio ieri sulla 7, perché veramente era inquietante quel servizio, e quindi siamo capaci di far vedere le cose come purtroppo vogliamo. L'ascolto per radio. Sì, ma sulla base di documenti però, sulla base di documenti inoppugnabili, da cui cioè, ricavato dalle voci dei protagonisti stessi, quindi poi che si chiama docufiction, ha questo nome osceno addirittura, non orribile, perché è una fiction basata su documenti, ma per l'appunto è basata su documenti, quindi poi si può guardare l'involucro, si può badare all'involucro, o seppure si può badare alla sostanza. La sostanza viene spettacolarizzata, ma non cambia una virgola rispetto al fatto che trattisi di sostanza. Da Palermo ha chiamato Gennaro, buongiorno. Buongiorno signor Digi, volevo soltanto prima di tutto farle i complimenti insieme al signor Bartoletti, mi avete fatto venire un po' di nostalgia, nonostante io sia un 38enne, però purtroppo quel mondo di cui parlate non c'è più. Tra l'altro ieri nella docufiction parlavano anche di personaggi di un certo tipo, come generali della finanza, altre istituzioni. Dico, la cosa è bruttissima, perché vuol dire che allora c'era proprio qualcosa di veramente marcio, a cui non si è dato assolutamente riscontro ai giornalisti poi successivamente. L'ascolto per radio e la ringrazio, facendo i complimenti. Ma sì, c'era tutto un mondo, un piccolo mondo, per carità, una piccola realtà, ma insomma, queste però non è poi questa grande scoperta, no? Questo è semplicemente un revival di quello che se chi ha voluto l'ha scoperto 3 anni e mezzo fa, e nel frattempo l'ha rimosso, nel senso che l'ho metabolizzato prima e rimosso poi, perché non si può continuare a rimestare sempre le stesse cose. E questa è la ragione per cui, mentre capisco, e Bartoletti stesso che l'ha visto e quindi ne ha parlato con molta maggior credibilità rispetto alla mia, mentre si può capire la scelta di rimandare in onda comunque quello che è comunque un pezzetto di storia patria, no? per brutta che sia, ma lo è, un po' meno si può capire la chiave di revisionismo storico che è stata usata invece dagli invitati, diciamo, per riequilibrare. Dagli invitati speciali. Pasquale Mantova, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Senta, io volevo riferirmi a quanto detto dal direttore Bartoletti riguardo all'intervento su Mourinho. Quanto riguarda il fatto che comunque l'arrivo di Mourinho in Italia è stato visto un attimino come essere un po' prevenuti nei confronti di Mourinho per le sue caratteristiche, diciamo. Ma non trova che invece oggi è l'esatto contrario, nel senso che Mourinho ha praticamente è lui stesso prevenuto nei confronti del giornalismo, soprattutto sportivo, ma soprattutto riguardo agli opinionisti. Io ogni tanto vedo il dopo partita su Sky e vedo una sua sofferenza proprio nel parlare, nel raccontare la partita con giocatori, ex giocatori e quant'altro. Grazie mille. Grazie a lei. Mi domando verso chi non sia prevenuto Mourinho in questo momento. Lei ha nominato un po' di categorie, se vuole le aggiungo la categoria della società Inter, perché mi sembra che ne abbia per tutti, no? Ne abbia per i responsabili dei rapporti con la stampa, ne ha avuto per i medici recentemente, per il medico sociale, ne ha per tutti. Beh, lasciamo stare Balotelli, a cui evidentemente sta dando l'educazione di cui Balotelli avrebbe bisogno, no? Perché credo che un educatore così non sia facile da trovare in giro per il mondo, ma mi sembra che ce l'abbia veramente con l'universo mondo in questo momento. E cosa vuol farci? Finché gli lasciano tenere di questi atteggiamenti, insomma, lui li tiene. È vero che sarebbe curioso capire perché poco alla volta si sia così incattivito nei confronti di tutti e di tutto, ma poi in fondo, se Dio vuole, il mondo va avanti lo stesso, e possiamo poi anche ogni tanto prendere buona nota che questo signore ha sbroccato o sta sbroccando seriamente, e poi farcene una ragione e lasciare che vada per la sua strada, insomma. Cristian Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto? Dica. Allora, io ho chiamato, intanto volevo intervenire a proposito di Mourinho. Uh-huh. Volevo intervenire e dire questo qui. Intanto volevo ricordare che da che Mourinho è arrivato in Italia, l'Inter è stata sempre prima in classifica. Però ugualmente viene bistrattata quotidianamente dai giornali, giocatori criticati e quant'altro. Quindi, considerando anche la componente psicologica dell'atteggiamento di Mourinho, non vorrei che questo servisse esclusivamente per accentrare su di sé le attenzioni e cercare di lasciare tranquilli i calciatori. Sì, potrebbe essere anche una strategia vera e propria per... Sì. Guardi, o è una strategia o una fregnaccia, che grosso modo dura da un anno e passa. Vediamo, è una di queste due cose. Lei è più per la strategia, o sono più per quell'altra. Vediamo, ripeto, non c'è che da lasciare scorrere il tempo. Fermo restando che è oggettivamente vero che Mourinho, da quando è arrivato in Italia, è sempre primo in classifica. Non mi ricordo negli ultimi anni Mancini particolarmente secondo o terzo, o quinto, però è vero che Mourinho è sempre stato primo, questo sì. Da Prato ho chiamato Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. Senta, io ho chiamato, le premetto questo, io ho un passato da calciatore professionista, ahimè calciatore di Serie C1. Beh, ahimè, è già un buon livello e ci si diverte a giocare. Sì, lo so, mi sono divertito, però chiaramente le mie aspettative erano altre. Sicuramente per delle mancanze che ho avuto io, sono riuscito solo a fare una carriera di Serie C. Quindi sono un assiduo vostro ascoltatore, in quanto per motivi di lavoro sto tanto in macchina, quindi vi ascolto sempre, sempre con piacere, perché comunque il mondo del calcio è un mondo che mi è appartenuto e che mi appartiene ancora. Grazie. Niente, volevo dire due parole velocemente sul discorso di Calciopoli. Io ho passato la Serie C quando il Perugia di Gaucci era in Serie C, quindi già a quei livelli si vedeva che c'era qualcosa. Quindi finalmente qualcuno ha fatto giustizia a tutto quello che anche a livelli più bassi comunque abbiamo dovuto subire. Quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno fatto luce a tutto quello che di marcio c'era nel calcio. No, le rispondo rapidamente. Questi complimenti non li meritano certamente i dirigenti calcistici, che hanno fatto di tutto per nascondere e insabbiare quello che stava accadendo. Li meritano soltanto i magistrati e gli uomini che, su autorizzazione dei magistrati, hanno intercettato e portato alla luce questa fogna in cui si dibatteva il calcio italiano. Non ci sono altri meriti in giro, altri magari se li stanno prendendo, arrogando. Non è così. I meriti sono di queste persone. Sì, ma sono assolutamente d'accordo con lei. E poi una cosa veloce su Balotelli, sicuramente questo è un ragazzo che ha delle capacità incredibili, grandissime, però veramente bisognerebbe che avesse fatto un pochino di Serie C, qualche trasfertina di 6, 7, 8 ore in pullman, e forse imparerebbe ad apprezzare un po' di più quello che madre natura gli ha dato e che con le sue capacità sta riuscendo a guadagnarsi in quel mondo difficile che è il calcio. Non ho dubbi su questo. Non ho dubbi, tante volte bisognerebbe aver fatto un po' di categorie inferiori, aver ispirato i sacrifici che comunque vengono fatti a quei livelli lì e poi ritrovarsi insomma a fine certo. carriera a dover comunque andare a lavorare per portare avanti una famiglia. Una volta si chiamava gavetta, sa Alessandro, e non era una parolaccia, era, poi visto che oggi l'abbiamo messa anche sul latino poteva chiamarsi cursus honorum e c'era l'inizio del cursus honorum che evidentemente partiva dal basso e poi invece adesso è arrivata questa moda per cui si parte ad allenare direttamente la Juventus, si parte ad allenare direttamente il Milan, si parte ad allenare direttamente, no, non dico l'Inter Mancini perché ha avuto prima Lazio e Fiorentina, ma insomma diciamo che una gavetta fatta con Lazio e Fiorentina è una signora gavetta, soprattutto se non è nemmeno un patentino, insomma. Oggi sono cambiati i tempi e vanno bene questi tempi qua. D'altra parte ogni tanto salta fuori un Guardiola che è vero che aveva allenato le giovanili o le squadre minori del Barça, ma insomma non è che avesse fatto tutta questa gavetta in giro. Eppure dire che oggi Guardiola non sia l'allenatore, non so se il migliore al mondo, ma certamente quello che ottiene i risultati migliori giocando il calcio migliore, questo è un dato di fatto. Non è una scienza esatta il calcio, non ci sono delle regole precise. Grazie anche a lei per il suo intervento. Il momento di Nicola Filippone e della sua riscoperta di una data, nella fattispecie il 16 di dicembre. Sembra ieri. 16 dicembre 1962. A Bologna, quella che sarà ricordata come la grande Inter, dà la prima vera dimostrazione di forza, travolgendo i padroni di casa per 4-0. Mattatore assoluto del match è l'ala brasiliana Jair da Costa, approdato in Italia da poco più di un mese. Jair realizza le reti dell'1 e del 2-0 nel primo tempo. Nella ripresa, l'opera viene completata da Maschio e Corso. Gli uomini di Herrera, a fine stagione, dopo un appassionante testa a testa con la Juventus, vinceranno lo scudetto, il primo titolo di una squadra che ha fatto epoca. Sandro, in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno, dottore. Di che? Prima di tutto devo ringraziare lei e Marino Bartoletti che mi hanno fatto assistere a questo duetto incredibile. Io ho avuto la fortuna di lavorare un po' con Marino quando Marino era in televisione. Mi sono sempre chiesto come un uomo della sua classe, della sua educazione, potesse resistere a lavorare in televisione. E ho sempre lavorato in televisione seguendo anche trasmissioni sportive di televisioni minori, le ho sempre seguite dal punto di vista professionale. E un giornalista più gridava e più era amato perché faceva ascolto. Certo. Non è cambiato molto, anzi, ormai quella è una deriva che può solo andare in quella direzione. Purtroppo sì, infatti voi avete detto una cosa giusta, il mondo del calcio è cambiato, la società del calcio è cambiata, ma secondo me è cambiato anche il modo di fare giornalismo. È cambiato giornalismo. Anche il gusto del pubblico, a forza di rovinarlo e di dargli le schifezze, non c'è niente certo, come certo. La schifezza per assuefare, c'è dubbio. Ma credo che sia cambiato il mondo del giornalismo, non soltanto quello sportivo, ma quello in genere. Signori come Marino ce ne sono pochi in giro, credo ancora, o come Brera. Ecco. Una cosa volevo dire, secondo me io sono un amante del calcio, mi piace andare a vedere le partite dei bambini perché credo che siano estremamente educative. Sì. Io credo che una parte ma questa è la mia idea, vorrei sentire la sua opinione, una parte delle non vittorie dell'Inter in Europa sono anche dovute alla grandissima arroganza che hanno i giocatori. Non so se questo dipenda da Mourinho, dalla società. Io vedo le partite dell'Inter in Italia e si permettono di urlare, di strillare contro segnaline, contro arbitri, per qualsiasi tipo di decisione essi prendano. Però in Europa queste cose non le possono fare, questa arroganza che loro hanno dentro, questa arroganza. Non, sì, in Europa... non, Sandro, non è soltanto dell'Inter, però mi lasci dire. Poi in genere è chi comanda che è più arrogante degli altri, e quindi può essere che in questa fase, in questo ciclo, sia una caratteristica dominante in loro, ma non creda che sia soltanto loro, perché e non creda che sia l'unica società che avverte un salto, no? giocando in Europa, perché questo è uno dei questo è uno dei gap principali che, a cui una società e in qualche caso una nazionale come la nostra deve abituarsi a far fronte quando varca i confini. Questo è un problema reale, indubbiamente. Da Brescia ha chiamato Angelo, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti. Secondo me Mourinho sta subendo il fatto che è arrivato in Italia come chiamo io lo specialone. Si sta rendendo conto che poi confrontandosi con gli altri suoi colleghi così specialone non è. Vedasi poi l'esportazione di Ancelotti, di Capello, di Spalletti. Quindi secondo me si sta accorgendo che non riesce a essere così speciale e di conseguenza si aprendo un po' con tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata a lei, Angelo, può anche essere. Può anche essere. Marcello da Milano scrive: non me ne voglia l'ottimo Filippone, ma vorrei fare anche gli auguri al Milan, che oggi compie 110 anni. Abbiamo una voce da sentire sul difficile momento della Juventus, e la voce è quella di uno che è mancato molto alla Juve nelle ultime partite, e soprattutto in quella con il Bayern, e cioè Chiellini. Sicuramente per la partita con il Bayern ha influito le grandi energie spese sabato, ma non tanto secondo me quelle fisiche, proprio quanto quelle mentali, perché venivamo da una settimana in cui insomma, la partita con l'Inter non era vita o morte, perché è un po' esagerato dire così, però era un crocevia della stagione tanto importante, e secondo me non ce l'abbiamo fatta bene a recuperare proprio le energie mentali necessarie per affrontare un'altra partita, purtroppo, che era altrettanto importante come quella con il Bayern. Sì, fermo restando che è giusto che la Juventus venga trattata in questo momento come una squadra in crisi, perché tale è, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e questo bisogna vedere se riusciranno a convincersi però che non è successo niente, cioè che è successo qualcosa di molto grave in Europa, ma che in campionato non è ancora successo nulla, perché sei punti di distacco dopo 16 giornate non dico che sono nulla, perché sono significativi, però non sono questo scarto irrimediabile, tanto più non avendo più l'impegno di Champions, perché quello di Europa League evidentemente è diverso, e quindi questa è una buona riflessione che potrebbero fare in casa juventina, che probabilmente una volta leccate le ferite stanno per l'appunto già facendo. Gianluca, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno, faccio una premessa che sono interista, per cui magari le mie valutazioni possono essere un po' condizionate, però intervenendo su Mourinho e fermo restando che è anche mio auspicio che possa inserirsi quanto prima nella dialettica un po' italiana, ecco, fra giornalisti, allenatori, calciatori, però credo che la sua preoccupazione principale sia quella di riuscire a togliere un pochino l'esigenza di vincere a tutti i costi, che c'è l'attesa che c'è per l'Inter di dover vincere a tutti i costi. Beh, in Coppa ci sta riuscendo molto bene, direi, sia lo scorso anno che quest'anno, no? L'esigenza di vincere a tutti i costi mi sembra che l'Inter non l'abbia avuta, e dato che per questo era stato convocato al capezzale, insomma, può darsi che questo sia una delle ragioni che hanno contribuito a, non dico incrinare, ma insomma a far diventare un po' più lasco il rapporto tra la società e il tecnico, credo. Ma ora io sinceramente in questi termini non so valutare, però credo che la società insomma abbia investito tanto su di lui, per cui credo che in questo caso debba usare molta saggezza. Sì, certo. Se non altro compresa la saggezza, mi scusi Gianluca perché stiamo chiudendo, ma compresa la saggezza di cominciare a guardarsi intorno come come risulta che la società non solo stia facendo, ma abbia anche già fatto in prospettiva. Grazie a tutti gli intervenuti, un grazie speciale a Marino Bartoletti. In regia c'era Pietro Lacorti, in redazione Flavio Suardi con Franco Piantanida. Buon pomeriggio.